Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. L'incontro di oggi, introdotto da questa musica del Gladiatore, è con Ettore Gotti Tedeschi. Buongiorno Gotti Tedeschi. Buongiorno. Ettore Gotti Tedeschi è un banchiere, presidente dello IOR da qualche mese, la banca, l'Istituto Opere di Religione, la banca del Vaticano, la banca del Papa. È un banchiere che ha percorso tutta la sua carriera nella finanza, anche se ha iniziato nella consulenza con McKinsey. È un banchiere di Piacenza, io comincerei proprio da Piacenza, nato a Piacenza e piacentino, Ettore Gotti Tedeschi. Allora, nato esattamente a Pontenure, a 11 km da Piacenza, dove venerdì sera mi daranno la cittadinanza onoraria. Beh, dopo quella effettiva però. Perché a Pontenure sono solo nato al finire della guerra, perché io sono nato nel marzo del 45 sotto le bombe, eravamo sfollati, quindi è soltanto un'abitazione temporanea della mia famiglia durante la guerra. Quindi tra pochi giorni buon compleanno, 65 anni, ben portati possiamo dire, e quindi piacentino. Cosa vuol dire vivere in provincia e cominciare a far carriera dalla provincia? Ma dunque, il fatto di avere la residenza e la casa di famiglia a Piacenza non significa abbia fatto carriera a Piacenza, anzi l'ho fatta fin dall'inizio sempre, perché ho cominciato a lavorare a Parigi e praticamente sono sempre stato fuori Piacenza, però avendo dato importanza invece alla costruzione della famiglia, io e mia moglie abbiamo avuto 5 figli e quindi i 10 anni successivi al matrimonio sono stati impegnativi. Ecco, io ho letto in un'intervista 5 figli sempre dalla stessa moglie. La stessa moglie, sì sì. Quindi la famiglia come un elemento di fondo, un elemento centrale, un elemento di continuità e di garanzia. Ma soprattutto come lo spirito e l'obiettivo strategico del matrimonio, anche perché ci sono tanti altri modi per vivere la propria vita, se la si vive da singolo o con altre vocazioni. Ma avendo vocazione matrimoniale, io e mia moglie, che cosa c'è di meglio che investire nei figli? Investendo non soltanto facendoli nascere, ma anche facendoli crescere, educandoli, facendoli diventare persone di criterio e adulte. C'è qualcuno che fa il banchiere tra i 5 figli? No, grazie a Dio no. Grazie a Dio no. Ma sono giovani, il più grande ha 32 anni, il più piccolo ha 22. E quindi però tutti hanno preso un po' le strade del mondo, mi sembra. Sì, sì, nessuno. In questo momento in Italia ce n'è una sola. E quindi, come diceva, la sua esperienza è iniziata invece a Parigi, anche per lei a Parigi. La SEMA fu uno dei due organismi che fu fondato negli anni 60 da Charles de Gaulle come risposta alla sfida americana. Lui creò la SEMA, che doveva essere la McKinsey europea, e l'INSEAD, che doveva essere in qualche sorta una specie di Harvard europea. SEMA vuol dire Société Économie Mathématique Appliquée, e fu creata e gestita uno dei più grandi economisti europei, si chiama Jacques Lesurne, che credo che sia attualmente il dean d'onore dell'École des Arts et Métiers. E quindi da Parigi poi questa McKinsey parigina è la McKinsey italiana? La McKinsey italiana, sì, tra Milano e Londra, sì. Anni 70? No, prima. No, in McKinsey ho cominciato a fine anni 70, ho cominciato a 79, primi anni 80, sì. Quindi con un'attività di consulenza in campo finanziario per poi diventare, fondare una propria banca, società finanziaria. In realtà no, in realtà mi sono occupato di, non tanto in campo finanziario, anche in campo finanziario, ma per esempio con McKinsey, soprattutto in campo strategico, anche per istituzioni finanziarie. Fu uno degli ultimi studi che feci in McKinsey, fu proprio nell'ambito della finanza, a supporto di scelte che l'IMI stava facendo, e così che il dottor Arcuti, che allora era presidente dell'IMI, mi cooptò nel mondo della finanza, facendomi entrare nel mondo IMI, dove venni nominato un anno dopo circa direttore generale di quella che era la piccola banca d'affari allora dell'IMI, di tal finanziaria, per fare quel famoso progetto di 1000 imprese in borsa. Poi in realtà non lo completai, perché con dottor Roveraro uscimmo e fondaste la Acros, sì, che fu una delle prime società finanziarie, una merchant bank in pratica. Fu una banca di investimento globale che faceva dagli investimenti in equity fino alle gestioni patrimoniali. Doveva, fu soprattutto originale nella sua nascita e composizione, perché nacque su progetto di una serie di managers. Il dottor Tedeschi, Fabrizio Tedeschi per esempio, lo Siracusano, io e il dottor Roveraro, che naturalmente senza il dottor Roveraro non si sarebbe fatto niente, lui poteva benissimo fare tutto senza di noi, però la fortuna volle che fossimo insieme, e soprattutto la formula, raccogliere un capitale importante, molto importante allora, fra i 200 più grandi azionisti italiani, più grandi non nel senso di dimensioni, ma c'erano tutta quella casta di azionisti che il mondo mediobanca scoperse negli anni successivi. Quindi una società che raggruppò appunto il meglio della finanza italiana, fu un po' un segno di vitalità di una finanza che peraltro rimaneva abbastanza dietro le quinte. L'Italia è sempre rimasta un mercato finanziario abbastanza provinciale. Doveva essere, Acros è stato un grande sogno, una grande promessa. Doveva essere soprattutto una organizzazione finanziaria che si occupasse delle medie imprese italiane e non delle grandi, per le grandi c'era già Mediobanca. E fu così in realtà, all'inizio, per i primi anni fu così. Poi vi ricordate che forse nell'87 ci fu il crollo delle borse mondiali, quindi certo, già lo scenario cambiò e Acros fu costretta a prendere delle strade diverse. E anche lei prese una strada diversa e andò invece che a Parigi in Spagna con il Banco di Santander. Io sì, nel 92 incominciai il mio rapporto con il mondo spagnolo e portai in Italia il Banco Santander, di cui è ancora il responsabile di italiano. Di cui sono ancora il senior country manager e presidente della banca italiana, e continuo a restarlo. A restarlo nonostante che abbia aggiunto a questa carica quella di presidente dell'Istituto delle Opere di Religione. Certo, le due cose non sono incompatibili. Non sono incompatibili. Anzi, forse sono anche sono un modo, soprattutto il fatto di poter portare un certo tipo di esperienza internazionale all'istituzione diciamo all'istituzione, stavo per dire italiana, Vaticana. Vaticana. Ecco, questo potrebbe essere anche molto utile, fino a quando riuscirò a farlo per un periodo di tempo. E non c'è un conflitto di interessi tra le due cose? Naturalmente no, se ci fosse un conflitto di interesse non sarei o l'uno o l'altro, per nessuna ragione al mondo. Ecco, siamo entrati allora nelle stanze del Vaticano, ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico, ritorniamo tra pochi minuti.